in punto. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. PM di Bari hanno sentito complessivamente 4 ragazze che sarebbero state portate a pagamento a partecipare a feste nella residenza romana di Silvio Berlusconi. È scontro tra D'Alema e il Popolo della Libertà. Nei prossimi 2 anni 2 milioni di persone in cassa integrazione o senza lavoro, lo dice il centro studi di Confindustria, ripresa faticosa secondo Via dell'Astronomia. Fiat farà il possibile per tutelare i lavoratori, dice l'amministratore delegato Marchionne. Sta finendo l'incontro a Palazzo Chigi con tutte le parti interessate. L'opposizione iraniana torna in piazza oggi, guidata dai suoi leader, per una giornata di lutto proclamata per i morti nelle manifestazioni. Su internet voci e video della protesta. Domenica e lunedì il voto per ballottaggi e referendum. Prosegue il nostro viaggio tra i confronti diretti più importanti. Oggi sentiremo i candidati a sindaco di Bologna. È morto il filosofo tedesco Ralph Dahrendorf, teorico della prospettiva del conflitto. Fu per 10 anni direttore della London School of Economics. Il calcio, seconda prova dell'Italia nella Confederation Cup. Dopo la vittoria sugli Stati Uniti, oggi incontra l'Egitto a Johannesburg. Una buona giornata da Alessandra Tedesco. Una buona giornata anche da Simone Spezia. In primo piano c'è l'inchiesta della Procura di Bari, che sta scatenando un vero e proprio terremoto politico, perché sarebbe emerso che alcune ragazze pagate sarebbero state pagate per partecipare a feste organizzate a Palazzo Grazioli, residenza romana di Berlusconi, ma anche a Villa Certosa, la casa del Premier in Sardegna. All'inizio l'inchiesta era su un presunto giro di mazzette nel campo della sanità e riguardava l'imprenditore barese Giampaolo Tarantini. Poi, attraverso le intercettazioni, i magistrati hanno formulato anche l'accusa di induzione alla prostituzione. Ricordiamo che al momento il presidente del Consiglio non è indagato. E allora facciamo un po' il punto, facciamo anche chiarezza su questa inchiesta. In diretta da Bari, Giovanni Longo. Sì, tutto ha avuto inizio con una inchiesta della Procura di Bari su una presunta associazione delinquere finalizzata alla corruzione per la fornitura di protesi mediche. L'ex titolare di una ditta che commercializza tecnologie sanitarie coinvolto nell'indagine è stato così intercettato per settimane. I finanzieri hanno pedinato Giampaolo Tarantini, 34 anni, allo stesso tempo descritto come un giovane rampante ma anche sposato e con 2 figlie. Alcune cimici sono state sistemate nella sua auto, nella residenza barese, nella stanza dell'albergo romano dove spesso alloggiava, nella villa Porto Rotondo, esclusiva quasi quanto quella di un vicino di casa eccellente, Silvio Berlusconi. Con i suoi interlocutori Tarantini parlava anche di feste in luoghi esclusivi, addirittura residenze private del Premier a Roma e in Sardegna. Per allietare gli eventi mondani, Tarantini avrebbe parlato di come contattare e invitare a queste feste giovani e belle ragazze, dietro pagamento secondo la procura, ma è ancora tutto da dimostrare. Intanto sembra proprio che a carico di Tarantini, oltre alla corruzione, sia stata contestata dal PM inquirente Giuseppe Scelzi anche l'istigazione alla prostituzione, come dicevate da studio. L'uomo nei giorni scorsi ha risposto in una caserma della Guardia di Finanza alle diverse domande degli investigatori. Ascoltate anche 4 ragazze che avrebbero partecipato a queste feste, tra loro anche Patrizia Daddario, intervistata dal Corriere della Sera. I finanzieri stanno effettuando riscontri, verificando date, biglietti aerei, soggiorni a Roma e in Sardegna. L'inchiesta nel più fitto riservo va avanti. Per il momento è tutto, a voi la linea. Grazie Giovanni Longo. Mentre l'inchiesta va avanti, naturalmente va avanti su questo tema anche lo scontro politico. Facciamo il punto anche su questo con Andrea Viali in diretta, collegato con noi da Roma. Andrea. Sì Alessandra, naturalmente la maggioranza in queste ore sta facendo quadrato attorno a Berlusconi, ma sta anche attaccando Massimo D'Alema per Cicchitto del Popolo della Libertà. È evidente che l'esponente del PD era a conoscenza dell'inchiesta di Bari già domenica, quando, lo ricorderete, aveva parlato di scosse in arrivo per il governo. Per Niccolò Ghedini, che invece è l'avvocato del Premier, oltre ad essere deputato del Popolo delle Libertà, è difficile pensare che Berlusconi debba pagare una ragazza quando, dice, potrebbe averne grandi quantitativi gratis. Ma sentiamo le parole di Ghedini. Certamente non ci può essere alcuna problematica nei riguardi del Presidente del Consiglio, perché se qualcuno si porta dietro in una cena, in una serata, soggetto che presenta come fidanzata, è impossibile conoscere la storia pregressa di questo soggetto o l'eventuale rapporto effettivo che esiste con l'amico invitato. Ecco, per quanto riguarda invece l'opposizione, D'Alema reagisce alle accuse, minaccia querele, parla di insinuazioni nei suoi confronti da parte del Popolo delle Libertà, e anche il PD si schiera con lui. Il segretario Franceschini sostiene che quando D'Alema parlava di scosse si riferiva a fatti politici, non certo a questa inchiesta di Bari, e comunque secondo Franceschini tutto quanto fa parte del solito copione di Berlusconi e della destra, che gridano al complotto, attaccano l'opposizione ma anche la stampa e la magistratura per raccogliere qualche voto in più. L'avete detto nei titoli, si vota domenica per i ballottaggi. Per ora è tutto. E grazie Andrea per questi aggiornamenti. E oggi Il Foglio, quotidiano diretto da Giuliano Ferrara e storicamente vicino alle posizioni di Silvio Berlusconi, pubblica un editoriale piuttosto critico al riguardo, a firma l'Elefantino, ossia lo stesso direttore Giuliano Ferrara, che lo ricordiamo da noi su Radio 24 conduce ogni mattina alle 9 Parliamo con l'Elefante. Sentiamo allora Ferrara. La faccenda che riguarda Berlusconi sembra sempre giocosa, ilare, il divertimento dell'imperatore, come disse sua moglie quando, esasperata, arrabbiata, preannunciò l'intenzione di divorziare. Adesso, da questo elemento tutto privato, tutto, si sta facendo invece seria, grave e seria. Perché? Perché Berlusconi ha dato all'Italia quello che aveva, il suo carattere di uomo privato, non di politico professionale, non di uomo delle istituzioni, imprenditore e uomo privato anche nei gusti, nel modo di parlare, nell'educazione, nella formazione. È arrivato a una sottile linea rossa, oltre la quale deve fermarsi. Deve fermarsi nel senso che deve spiegare bene qual è il suo modo di vivere, anche nei palazzi della politica e delle istituzioni, deve interrogarsi se questo suo modo di vivere sia o no compatibile con la funzione che esercita, e soprattutto quando si difende, anche con grinta, con orgoglio e con un talento famoso, deve difendersi in modo più serio, fattivo. Non può far dire al suo avvocato che se fossero vere le cose dette da una signora che sostiene di essere stata pagata per dormire con lui a Palazzo Grazioli, lui non sarebbe penalmente perseguibile in quanto ultimo utilizzatore. Non è serio. E ora veniamo alla situazione che si è venuta a creare in Iran dopo le elezioni del 12 giugno, che, lo ricordiamo, hanno riconfermato alla presidenza l'ultraconservatore Ahmadinejad. La prossima settimana il Consiglio dei Guardiani, che deve esprimersi sulla regolarità dei risultati, incontrerà i 4 ex candidati, definiamoli così. Intanto anche per oggi sono previste manifestazioni di protesta da parte dei sostenitori del leader moderato Moussaoui, che contesta il voto. Cristina Balotelli, com'è oggi la situazione, per quanto naturalmente si può riuscire a capire da qua, visto che molti corrispondenti esteri, molti inviati stranieri sono stati di fatto cacciati dal paese, compreso il nostro Alberto Negri, che insomma è dovuto partire. Sì, occhi puntati questo pomeriggio sulla grande piazza Imam Khomeini di Teheran, dove si terrà una nuova manifestazione dei sostenitori di Moussavi, che per oggi ha dichiarato una giornata di lutto per le vittime degli scontri e che sarà presente, così come sarà presente anche l'ex candidato riformista Karrubi. Domani i seguaci di Moussavi e Karrubi sono invece invitati a radunarsi intorno all'Università di Teheran, dove si svolgerà la preghiera collettiva del venerdì, ma alla preghiera dovrebbero esserci anche i Basiji, la milizia islamica fedele al presidente. Si temono quindi scontri. Ecco Cristina, si parlava prima di censura da parte del regime iraniano, qualcosa invece riesce a filtrare su internet? Sentiamo in sottofondo per esempio adesso degli audio che hai potuto scaricare appunto dal web. Sì, i social network e YouTube sono diventati degli strumenti per documentare la repressione. Con i cellulari sotto controllo, con molti siti web oscurati dal regime, qualcuno ha spostato la protesta sui social network come Facebook e Twitter, oppure è riuscito a caricare video come quello che state sentendo su YouTube. Quello che state sentendo però in particolare è stato postato anche su Facebook e mostra una fiumana di gente lungo una strada di Teheran. La manifestazione è pacifica, però come potete sentire si sentono battiti di mani, canti e si possono anche distinguere nel video delle bandiere verdi. Trovato sempre in rete anche un altro video di una manifestazione a Teheran con la gente che urla slogan pro Moussavi. Sentiamo. Poi ci sono i blogger iraniani come come Nina, che ha postato sul suo blog in lingua farsi diverse foto di persone ferite, o come Saed Valabaiji, 25 anni, studente iraniano di ingegneria, che nel suo blog in inglese ha messo moltissime foto, ma ha inserito anche video, e tra gli articoli uno scritto da Human Rights Activist in Iran sugli arresti e su come vengono trattati i prigionieri. Ne leggiamo una parte: si stima che almeno 1000 dimostranti siano stati arrestati negli ultimi giorni e trasferiti alle prigioni di Evin e Kazirak. Centinaia di manifestanti sono tenuti in piccole celle e viene loro negata la visita dei familiari e il diritto di telefonare e di avere pasti regolari. Le condizioni di detenzione sono pessime. A voi la linea. Grazie Cristina Balotelli per questi aggiornamenti. Ha fatto notizia, oggi c'è la foto su molte prime pagine dei quotidiani anche italiani, la decisione di alcuni calciatori della nazionale iraniana di indossare al polso fasce verdi durante la partita di ieri sera contro la Corea del Sud, valida per qualificarsi ai mondiali. Un gesto che è stato interpretato da molti come segno di solidarietà con il riformista Moussaoui, visto che il colore verde è stato usato dai sostenitori di Moussaoui nella campagna elettorale. Ma il direttore sportivo della nazionale iraniana oggi ha voluto precisare: in realtà è stato un voto religioso per invocare l'imam Hussein affinché li aiutasse a vincere. Sia quel che sia, l'Iran è fuori dai mondiali di calcio, mentre si qualifica un altro dei cosiddetti stati canaglia, la Corea del Nord. L'amarezza di Teheran, la gioia di Pyongyang, emozioni che dal campo di calcio corrono lungo quello che George W. Bush definì come l'asse del male, che a suo dire univa Iran, Iraq e Corea del Nord nel sostegno al terrorismo internazionale e alla proliferazione delle armi nucleari di massa. A intrecciare l'asse del male con le speranze mondiali ci ha pensato il girone B delle qualificazioni asiatiche a Sudafrica 2010. L'1-1 di ieri a Seul tra Corea del Sud e Iran ha spento definitivamente il sogno qualificazione degli iraniani, perché ha fatto il paio con lo 0-0 di Riyadh tra Arabia Saudita e Corea del Nord. Risultato: Corea del Sud e Corea del Nord qualificate per i mondiali africani, sauditi agli sparigi e iraniani a casa. Per la prima volta, dunque, le due Coree partecipano così a una fase finale dei mondiali, col regime di Kim Jong-il pronto a sfruttare politicamente lo storico evento. E la cosa dovrebbe creare qualche apprensione proprio a noi italiani, perché se nei mondiali 2002 a Dajeon con i sudcoreani, complice l'arbitro Moreno, finì così... Il pallone per Song, il cross, e gol! E gol della Corea! E per l'Italia il mondiale finisce! Ai mondiali inglesi del 1966 contro i nordcoreani andò anche peggio, con una sconfitta a dir poco inattesa che rispedì a casa gli azzurri di Edmondo Fabbri. Ha segnato il numero 7, passo il centrocampista. Dario Ricci, GR24, il Sole 24 Ore. Le 13:17 minuti, 48 secondi, nella prima parte del GR Extra Large abbiamo parlato dell'inchiesta di Bari, nella quale sono state sentite quattro ragazze che sarebbero state portate a pagamento a partecipare a feste nelle residenze di Silvio Berlusconi, quella romana e quella sarda. Nel frattempo la vicenda diventa uno scontro politico. E poi abbiamo ampiamente parlato di Iran, con l'opposizione che oggi torna in piazza, guidata dai suoi leader, per una giornata di lutto proclamata per i morti nelle manifestazioni. Abbiamo sentito anche gli audio della protesta che iniziano a circolare su internet. Ora parliamo di economia. Lo facciamo con le previsioni del Centro Studi di Confindustria, che sono state aggiornate e sono state rese note questa mattina. Ce ne parla Chiara Di Michele. Chiara. Sì, buongiorno. Purtroppo il peggio non è ancora passato e la ripresa sarà ripida. Nonostante si intravedano segnali di ripresa per il prossimo anno, i dati del Centro Studi di Confindustria fotografano una situazione economica ancora difficile. Nel 2009, secondo lo studio, il prodotto interno lordo in Italia si contrarrà del 4,9%, una stima al ribasso rispetto al 3,5% previsto a marzo. Nel 2010 l'economia dovrebbe tornare a crescere dello 0,7%, ma la ripresa si preannuncia lenta. L'industria lancia poi l'allarme occupazione. In due anni, tra il primo trimestre 2008 e il primo trimestre 2010, la recessione causerà la perdita di circa 1 milione di unità di lavoro. Il tasso di disoccupazione in rialzo passerà dall'8,6% del 2009 al 9,3% del prossimo anno, il livello più alto dal 2000. Anche debito pubblico è in crescita, 114,7% quest'anno e 117,5% nel 2010. Confindustria sottolinea che il prodotto interno lordo potrebbe crescere nei prossimi 20 anni del 30% se spinto dalle riforme. Ecco le richieste che il numero uno di Viale dell'Astronomia, Emma Marcegaglia, rivolge al governo. Una Tremonti Ter, cioè proprio uno sgravio fiscale alle imprese che investono soprattutto in macchinari, in tecnologia, in innovazione. Chiediamo poi l'apertura dei piccoli cantieri infrastrutturali, quelli che potrebbero immediatamente dare un aiuto alla domanda interna. Chiediamo di continuare a tenere un occhio molto attento al credito, anche oggi abbiamo evidenziato che c'è un problema effettivo di restrizione al credito. E poi chiediamo però di non abbandonare le grandi riforme che sono quelle che possono aiutare poi il Paese a riprendere un cammino di crescita. Specifico istruzione, scuola, università, liberalizzazione. Grazie Chiara Di Michele. Intanto arrivano dati negativi per l'export italiano. Le esportazioni nel complesso sono diminuite del 28,7% in aprile rispetto allo stesso mese del 2008 e del 2,9% rispetto al precedente mese di marzo. Anno su anno il calo è di oltre il 33% verso i paesi europei. I dati sono stati forniti dall'Istat, che ha spiegato che a livello tendenziale si tratta del dato peggiore dal dicembre del 1986. Rimaniamo a parlare di crisi e di industrie. Il tema è quello del grande riassetto che all'ombra della recessione si sta attuando soprattutto nel settore dell'auto. Un riassetto che ha portato, come sapete, all'operazione con la quale Fiat ha conquistato Chrysler negli Stati Uniti e al tentativo di acquisizione di Opel. Sugli effetti italiani di tutto questo si sta discutendo in queste ore a Palazzo Chigi, presenti i vertici dell'azienda, i sindacati, i presidenti delle regioni nelle quali si trovano gli impianti Fiat e, naturalmente, i rappresentanti del governo. Un incontro che per noi sta seguendo Paola Cavadi. Paola. Sì, buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. Gli stabilimenti Fiat di Pomigliano d'Arco e di Termini Imerese non chiuderanno. Lo ha assicurato l'amministratore delegato di Fiat Marchionne al tavolo sulle prospettive occupazionali e industriali dell'azienda convocato qui a Palazzo Chigi. Negli impianti siciliani di Termini Imerese si continuerà a produrre il modello Y fino al 2011, poi si manterranno produzioni ma non automobilistiche. A Pomigliano si confermano le linee produttive esistenti fino al 2010, poi si passerà a nuovi modelli. In tutti gli altri stabilimenti la situazione rimarrà immutata. Governo, regioni e sindacati parteciperanno poi a 3 tavoli di confronto su occupazione, ricerca, innovazione e componentistica. Lo ha annunciato il ministro Scajola al termine dell'incontro, specificando poi che nelle aree di Pomigliano d'Arco e Termini Imerese, le più colpite dalla crisi, verranno attivati accordi di programma con risorse pubbliche e private per favorire la riorganizzazione degli impianti. E la reazione dei sindacati è stata positiva. Da tempo ormai chiedevano la convocazione di un tavolo sulla Fiat. Per il segretario della CGIL Epifani, Marchionne ha fatto un quadro onesto della situazione, ma senza nascondere la crisi di vendite del settore auto. Bene l'accordo con Chrysler, ha aggiunto il leader della CGIL, ma bisogna mantenere lo sviluppo in Italia e continuare a confrontarsi evitando di creare spaccature nel mondo del lavoro. Il segretario della CISL Bonanni invoca la necessità di un patto tra governo, aziende e sindacati per evitare il depotenziamento degli stabilimenti nel meridione. Il confronto continuerà dunque nelle sedi specifiche, ma Palazzo Chigi sarà la sede di un tavolo permanente pronto ad entrare in azione qualora ce ne fosse bisogno. Il premier Berlusconi è andato via prima della conclusione dell'incontro per partecipare al Consiglio europeo di Bruxelles. La stabilità del governo non è in discussione, ha detto uscendo da Palazzo Chigi. Non bisogna dare retta ai rumors infondati su Draghi e Tremonti. Ognuno di noi, ha concluso, farà la sua parte. Da Palazzo Chigi è tutto. Grazie Paola Cavadi per questi aggiornamenti. Cambiamo argomento. Vi abbiamo raccontato, continuiamo a parlare di industria in realtà, perché vi abbiamo raccontato molte volte della ribellione delle imprese siciliane al racket, ossia al pagamento del pizzo alla criminalità organizzata, alla mafia. E oggi infatti è arrivata un'altra storia, però questa volta arriva da Napoli, dove l'Unione Industriali ha deciso di prestare, per così dire, i suoi manager alle procure affinché analizzino bilanci e rendimenti delle aziende sequestrate alla camorra. E allora sentiamo il presidente dell'associazione imprenditoriale, Giovanni Lettieri, intervistato da Maria Luisa Pezzali. Ci troviamo in un momento congiunturale particolare, dove le aziende, a causa della crisi, di per sé già ne chiudono a iosa. Poi di più c'è il problema che si è scatenata giustamente la lotta alla criminalità organizzata, le forze dell'ordine stanno ottenendo degli ottimi risultati. Il problema che si pone è che spesso vengono sequestrate delle aziende industriali, le autorità giudiziarie sono poche competenti della gestione industriale delle aziende. Allora l'accordo prevede che noi mettiamo a disposizione dei manager gratis, a disposizione dell'autorità giudiziaria, per fare un'analisi delle potenzialità di mercato dell'azienda sequestrata dalla criminalità, sequestrata dalla camorra, B, prospettive di mercato, e C, proprio aiuto nella gestione ordinaria, in modo che si possano salvare posti, occupazione, e si evita che un'azienda che magari ha possibilità di rimanere sul mercato a prescindere dalla criminalità organizzata venga chiusa, e non più, e quello è un bene non più purtroppo recuperabile. Secondo lei quante di queste aziende, una volta ripulite, possono sopravvivere sul mercato? La criminalità organizzata che fa investimenti nelle aziende industriali anche attraverso holding organizzate non lo fa in aziende industriali che non hanno prospettive, non hanno mercato e non vanno bene. Se lo fanno sono anche investitori oculati, per cui lo fanno in aziende che funzionano, per cui io direi la maggior parte di quelle. Questa iniziativa richiama l'iniziativa dei colleghi siciliani quando hanno detto no al pizzo. Lei crede che iniziative di questo genere, di collaborazione fra il mondo industriale e le istituzioni, siano la strada giusta? Io credo che oramai ci sia la coscienza da parte dell'imprenditoria meridionale, ma anche da parte delle forze dell'ordine, c'è la coscienza che oggi ci troviamo di fronte a degli imprenditori diversi, a degli imprenditori che la pensano in maniera diversa. La cosa è iniziata con Ivan Lobello in Sicilia, e quel provvedimento che ha preso Confindustria Sicilia è stato preso anche dall'Unione degli Industriali di Napoli e da Confindustria Campania. E questo è un ulteriore passo avanti, e cioè ci mettiamo proprio in prima persona, in prima riga, a salvare le attività industriali che vengono sequestrate alla criminalità organizzata, per riportarla sulla trasparenza, per riportarla sul mercato e per salvare occupazioni. E ora, come vi avevamo annunciato prima, il calcio internazionale, che però riguarda da vicino l'Italia, perché gli azzurri si preparano ad affrontare questa sera l'Egitto nella Confederation Cup. L'Italia è una squadra che è capace di giocare bene, benissimo, male, anche malissimo, ma c'ha un'anima. Sei nell'anima. Proviamo a rinfrescarla questa anima dell'Italia, che stasera a Johannesburg si cimenta con l'Egitto, una squadra che un tempo si sarebbe detto una squadra d'Egitto e che invece ha già fatto tremare il Brasile con un certo Zidane, che non è il Zidane della testata Materazzi, ma che tecnicamente non ha nulla da invidiargli. La nostra missione, oltre che passare il turno, è quella di andare oltre alla notte di Berlino, cioè a quel bellissimo ricordo che, come tutti i ricordi, rischia di rallentare il presente. Con gli Stati Uniti lo abbiamo visto, un primo tempo lento e difficile, un secondo, con l'innesto della linea verde Montolivo-Rossi, un fuoco d'artificio di emozioni e di gol, quasi sorprendente. Lo spirito giusto, insomma, aiutato da una stella emergente, Giuseppe Rossi, che ha messo in ombra i tanti divi strapagati che affollano le squadre spagnole. Stasera rientra Cannavaro e va bene l'esperienza, però la strada giusta per i mondiali è quella di questi ragazzi, meno carichi di gloria ma pieni di futuro. Dario Ceccarelli, GR24, Il Sole 24 Ore. E tra l'altro più avanti Gianna Nannini, insomma, risentiremo Gianna Nannini in qualche modo in un'altra veste nel GR Extra Large. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. Nei prossimi 2 anni 2 milioni di persone in cassa integrazione o senza lavoro, dice il centro studi di Confindustria, ripresa faticosa secondo Viale dell'Astronomia. La presidente Marcegaglia chiede al governo riforme. Fiat farà il possibile per tutelare i lavoratori, lo dice l'amministratore delegato del Lingotto Marchionne, non chiuderanno né Pomigliano né Termini Imerese. I PM di Bari hanno sentito 4 ragazze che sarebbero state portate a pagamento a partecipare a feste nella residenza romana di Silvio Berlusconi. È scontro tra D'Alema e il Popolo della Libertà. L'opposizione iraniana torna in piazza oggi, guidata dai suoi leader, per una giornata di lutto proclamata per i morti nelle manifestazioni. Su internet voci e video della protesta. Domenica e lunedì il voto per ballottaggio e referendum. Prosegue il nostro viaggio tra i confronti diretti più importanti. Tra poco sentiremo i candidati a sindaco di Bologna. È morto il filosofo tedesco Ralph Dahrendorf, teorico della prospettiva del conflitto. Fu per 10 anni direttore della London School of Economics. Il calcio, oggi seconda prova dell'Italia nella Confederation Cup, dopo la vittoria sugli Stati Uniti, oggi incontra l'Egitto a Johannesburg. Poco fa abbiamo sentito come stanno andando le borse, rimaniamo in tema di mercati, cerchiamo di capire come i quotidiani internazionali interpretano le nuove regole per la finanza che sono state varate ieri dall'amministrazione americana. Tra i punti della riforma, una nuova agenzia per la protezione finanziaria dei consumatori, in particolare per quel che riguarda mutui e carte di credito, regole più dure sulle retribuzioni dei manager, maggiore forza alla Federal Reserve nelle sue attività di supervisione. E allora Michele Pignatelli ci racconta che cosa dicono i giornali stranieri. L'argomento centrale, trasversale, direi, dei principali quotidiani internazionali di oggi, specializzati e non, è il piano per nuove regole sui mercati finanziari presentato ieri dal presidente americano Obama, la più grande riforma regolatoria dagli anni 30 a oggi, come è stato definito. Più poteri alla Fed, nuove authority a difesa dei consumatori, più controllo. Vediamo in particolare qualche analisi dei quotidiani internazionali. Partiamo dal Financial Times, che titola in prima pagina «Le società americane di fronte a una riorganizzazione, una scossa regolatoria». A pagina 2 e 3 però ci si concentra appunto sugli aspetti analitici. L'analisi di pagina 3 titola «Il libro bianco prospetta abili compromessi». E più in dettaglio si sottolinea che al di là dei timori per i maggiori poteri della Fed, la maggior parte delle battaglie in congresso si giocherà poi sui dettagli. A pagina 2, un approfondimento strettamente finanziario, viene sottolineato che tra gli aspetti di cui si nota di più l'assenza è l'ipotesi di fondere i due soggetti regolatori dei mercati, la SEC e la Commissione di Controllo sui Futures. Il Wall Street Journal titola «Obama volta pagina sulla supervisione». Un paio di analisi: il presidente aspira a un tocco leggero, non alla mano pesante, si legge in una di queste. In quella più ampia, il ruolo più ampio della Fed suscita controversie, soprattutto per come la Federal Reserve ha gestito l'attuale crisi finanziaria. New York Times, nell'analisi che parte in prima pagina, solo un cenno di Roosevelt, leggiamo nel titolo, nel piano di supervisione. Quello di Obama infatti è piuttosto un tentativo di mettere dei puntelli regolatori alla fragile diga finanziaria. Lasciando i giornali anglosassoni, l'Execo titola «Obama apre la nuova era della regolamentazione finanziaria», ma poi l'editoriale sottolinea piuttosto la realpolitik del presidente, che ha fatto quello che era possibile. Un po' come la tedesca Frankfurter Allgemeine Zeitung, che sottolinea il Gratwanderung, il cammino sul filo di Obama. A parte questo grande tema, vi voglio segnalare poi l'ampio spazio, anche fotografico, che è ancora in prima pagina sui quotidiani, la protesta iraniana, la ribellione silenziosa, come la chiama nel titolo il Times oggi. È un tema di giornata, l'apertura del Financial Times. Barroso affronta un passaggio critico nel tentativo di ottenere un secondo mandato alla guida della Commissione europea. Il vertice europeo prende il via oggi e ci sono contrasti tra le diverse istituzioni e all'interno dei diversi partiti. E proprio a proposito di Europa, e ringraziamo intanto Michele Pignatelli, c'è una dichiarazione del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi sulla candidatura alla presidenza dell'Europarlamento dell'italiano Mario Mauro. «Noi mettiamo lì la nostra candidatura convinti che sia la migliore». Queste le parole di Berlusconi al suo arrivo al vertice del Partito Popolare Europeo a Bruxelles. Andiamo avanti con la politica, perché proseguiamo il nostro viaggio attraverso i principali ballottaggi che si svolgeranno domenica e lunedì, in contemporanea, naturalmente lo ricordiamo, al referendum che intende modificare la legge elettorale. Oggi conosciamo meglio i candidati alla poltrona di sindaco di Bologna. Iniziamo da quello del Popolo della Libertà, Alfredo Cazzola, intervistato da Maria Chiara Grandis. Gli interventi più importanti e più rapidi che noi immaginiamo di dover realizzare riguardano certamente una lotta al degrado. Abbiamo necessità di sviluppare un piano straordinario per la pulizia dei muri, dei portici e di avviare interventi di illuminazione e di controllo del territorio attraverso anche l'assunzione di un numero superiore a quello attuale della polizia municipale. Poi abbiamo progetti che riguardano il welfare come le infrastrutture, quello di realizzare una grande linea di metropolitana, un piano programma che vede il primo biglietto emesso entro il 2015, mentre diciamo una cosa più importante è un piano di parcheggi in prossimità del centro storico che vede la realizzazione di almeno 3.000 posti auto rispetto agli attuali. Il welfare è il punto focale del nostro programma perché mette al centro del sistema sociale la famiglia e un progetto che appunto impatta nella vivibilità, nel tema della casa, nel tema dell'assistenza agli anziani e anche ovviamente in quello che è il grande progetto che immaginiamo di sussidiarietà. Abbiamo anche altri progetti che vanno nella direzione culturale della nostra città. Abbiamo un progetto che vuole riportare al centro della cultura europea la nostra città con una serie di iniziative che coinvolgono non soltanto l'università ma anche tutta una serie di volani economici che saranno attivi e predisposti per sviluppare progetti e iniziative che vedranno Bologna tornare a essere una città vivace e culturalmente molto attiva. Il candidato del centrosinistra è invece Flavio Del Bono, che al microfono di Massimo Di Scienza così invita i bolognesi a sceglierlo come nuovo sindaco. È un appuntamento fondamentale, invito tutti i bolognesi a partecipare al voto, sceglieranno il sindaco del futuro di Bologna, la Bologna che voglia, una Bologna metropolitana, una città che si organizza meglio su scala metropolitana anche per risparmiare, per ridurre i costi della burocrazia, per ridurre gli oneri per i cittadini, una Bologna più sicura, una Bologna più bella e quindi più attraente, in grado di diventare sempre di più europea, di diventare una delle nuove capitali europee, investire sulla energia, investire sulla rivoluzione verde, investire sulle infrastrutture e ovviamente difendere sempre le famiglie più deboli, soprattutto in una fase come questa dove la crisi economica ci colpisce in molti casi anche duramente, per stare vicine ai più deboli, per far sì che passata la fase critica Bologna sia ancora più forte e abbia al suo fianco un sindaco che i bolognesi meritano. E a testimoniare il clima teso di questa fine di campagna elettorale a Bologna, ricordiamo che Del Bono, del Partito Democratico, che al primo turno ha preso il 49,4%, ha presentato una querela per diffamazione contro Cazzola, il quale invece arriva al ballottaggio con un 29,1% delle preferenze, che lo aveva accusato di uso improprio di fondi pubblici. Sulla vicenda la Procura di Bologna ha aperto un'inchiesta. Le radio pirata esistono ancora? Pare proprio di sì, perché ne rievoca la grande storia degli inizi un film uscito in questi giorni e poi un libro ci spiega appunto che l'avventura non è finita. Anni 60, nella rigida Inghilterra agli albori della Swinging London, i teenager trovano una scappatoia dalla severa realtà ascoltando le radio pirata. Altro che l'ingessata BBC, canzoni rock e pop 24 ore al giorno. La storia viene rievocata in questi giorni al cinema da I Love Radio Rock di Richard Curtis con Kenneth Branagh e Philip Seymour Hoffman, film che racconta le vicende dei DJ che vivevano letteralmente per la musica e facevano sognare gli ascoltatori. DJ che erano veri pirati che trasmettevano dalle navi al largo del Mare del Nord. La storia vera delle radio pirata è riuscita a diffondersi per più di 40 anni e non è finita, come racconta Andrea Borgnino, autore del volume Radio Pirata. Sono le radio pirata che ancora oggi trasmettono, faccio qualche esempio, quelle di Londra. A Londra ci sono 150 stazioni pirata che ogni weekend infestano l'etere per il prossimo anno, ci sono le stazioni pirata ad Amsterdam, ce ne sono tantissime nel nord dell'Europa, soprattutto Olanda, Germania e Belgio, che trasmettono in onde medie e si possono anche ascoltare dall'Italia. Io ne ho intervistate un paio, ci sono radio pirata in Germania, ci sono anche radio pirata in Italia che non trasmettono in FM perché la banda FM è troppo intasata e trasmettono in onde corte, quindi si fanno ascoltare in tutta Europa. Ma perché esistono ancora pirati della radio oggi, che è possibile per chiunque aprire un'emittente sul web? Se vai a intervistare i pirati radiofonici e gli chiedi ma perché lo fai, loro non ti dicono né per motivi politici né perché vogliono lanciare grandi messaggi alternativi, semplicemente per il gusto di farlo, di trasmettere la musica che gli piace a loro. Lasciami aggiungere, spesso musica orribile quando si parla di radio pirata in Nord Europa, ma per il puro gusto di andare contro una legge e di poter appropriarsi di un pezzettino dell'etere. Tutto questo su internet è troppo facile. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Dopo il successo dello scorso anno, con 25.000 presenze, torna la sua quinta edizione Parma Poesia Festival, in programma fino al 24 giugno. Parma, crocevia per una settimana di differenti forme di linguaggio, mondi, persone, culture e tendenze per allargare i confini dell'espressione poetica. Oltre 60 appuntamenti per questa quinta edizione di Parma Poesia Festival, a dimostrazione di quanto sia forte l'interesse per questa forma d'espressione, come ci conferma il poeta e romanziere Nanni Balestrini. Ma io penso che ha un'ottima vitalità, e non solo perché ci sono festival importanti come questo di Parma, che forse è più importante che c'è in Italia, ma perché c'è una nuova generazione di poeti giovani molto forte, molto buona, molto interessante. Cioè questa vitalità viene anche da un ricambio di generazioni che si sviluppa appunto oggi in un modo abbastanza inconsueto per vastità di voci. La cosa interessante anche è che si tratta soprattutto di voci femminili. Qual è il pubblico più interessato alla poesia? Ma io trovo molti giovani, anche perché si è sviluppato un fenomeno che è quello dell'ascolto della poesia orale. Il festival si apre con una grande mostra dedicata a Corrado Costa, dal titolo Le apparizioni dell'uomo invisibile, un omaggio alla figura eclettica di Corrado Costa, artista, poeta, performer e membro del gruppo 63, di cui Renato Barilli e lo stesso Nanni Balestrini, che ha curato questa mostra, furono grandi amici. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. E a testimoniare il grande successo che negli ultimi anni sta avendo la poesia, vi segnaliamo anche che a Genova c'è un altro grande appuntamento con la 15ª edizione del Genoa Poetry Festival, in programma fino a sabato. Le 13:47 minuti, 30 secondi, parliamo adesso appunto della morte di Ralph Dahrendorf. Sì, uno dei maggiori filosofi e sociologi contemporanei è morto oggi a 80 anni. Sentiamo il commento di Salvatore Carrubba. Filosofo e sociologo tra i più importanti del Novecento, Ralph Dahrendorf non sfuggì alle responsabilità pubbliche, anzi riuscì a essere prima commissario europeo per il suo paese di nascita, la Germania, poi membro della Camera Alta del suo paese d'adozione, la Gran Bretagna, che nel 1993 lo fece Lord, anzi per la precisione Barone di Clare Market. Se cambiò passaporto, Dahrendorf non rinunciò mai alla sua fede liberale, fu anzi uno dei pensatori più originali e innovatori del secondo dopoguerra. La sua visione di una società mossa e animata dal conflitto lo rese un'icona per chi negli anni 70 si batteva per svecchiare il liberalismo dalla patina conservatrice che lo aveva deformato. Quando 20 anni fa crollò il comunismo, che aveva diviso in due il suo paese, insistette sull'esigenza di ricostruire una società civile e sull'urgenza per il liberalismo di quadrare il cerchio, di coniugare libertà individuale e solidarietà sociale, di mostrarsi capace di tenere unita una società. Su questo avrebbe avuto ancora molto da insegnarci. E come abbiamo sentito anche dal commento di Salvatore Carrubba, fu anche nella Commissione europea Ralph Dahrendorf, e proprio di Unione Europea parla in questo estratto dal suo intervento al Festival dell'Economia di Trento nel 2006. Ascoltiamolo. You know, I have long believed that if the European Union is a part... Ho pensato per lungo tempo che se l'Unione Europea è parte delle nostre vite, dovrebbe attraversare dei periodi, per così dire, di normalità, in cui non ci sia nessun grande progetto da inseguire. Si potrebbe dire che il fattore di debolezza dell'Unione Europea è che ha sempre guardato al prossimo grande progetto da seguire, invece che interessarsi da vicino a ciò che avviene nel mondo reale e che deve essere gestito ogni giorno. Quindi, se l'Unione Europea attraversasse un periodo in cui avesse a che fare solo con problemi più vicini alla realtà, ne sarei pienamente soddisfatto. Penso quindi che la mania di cercare di inseguire e raggiungere grandi progetti e obiettivi sia una debolezza e non un punto di forza per l'Unione Europea. Credo, per esempio, che si debba lasciare un poco da parte la questione del trattato costituzionale. Non c'è molto da guadagnare nel passare tanto tempo su questa questione. Ci sono piuttosto altre questioni pratiche che dovrebbero essere affrontate, come per esempio il tema del mercato unico. Il mercato unico è un grande obiettivo che è stato raggiunto, ma non è ancora completato e c'è ancora molto da fare. Penso dunque che se Bruxelles attraversasse un periodo di tranquillità, non sarebbe una cattiva notizia per gli europei e nemmeno per l'Unione Europea come organizzazione. Per favore, non inseguite disperatamente un progetto. Sarebbe la peggior cosa da fare. Ora parliamo di musica. Quella che sentite la voce, la riconoscete, quella di Gianna Nannini che canta Attimo, canzone tratta dal suo ultimo album. È una delle cantanti che parteciperà domenica 21 giugno allo Stadio San Siro di Milano, sia domenica prossima allo Stadio San Siro di Milano al concerto Amiche per l'Abruzzo. Un'iniziativa per raccogliere fondi in favore delle popolazioni terremotate. Per la prima volta nella storia della radiofonia italiana i network nazionali si uniranno per trasmettere in contemporanea il concerto. Anche Radio 24 trasmetterà dunque questo concerto a partire dalle 19:30. Sul palco, oltre alla Nannini, ci saranno Laura Pausini, Fiorella Mannoia, Elisa e Marina Rei. Sentiamo la Rei, intervenuta questa mattina in Essere e Benessere. Diciamo che fortunatamente la musica è sempre, ha sempre, come dire, sposato progetti di solidarietà in un modo o nell'altro. Devo dire che la musica, insomma, con i musicisti o anche artisti, insomma, si sono sempre uniti per sostenere comunque una causa di emergenza. Ovviamente questo è un evento importante, un evento unico, probabilmente irripetibile, e nella sua unicità, ecco, per l'appunto vede unite tutte queste donne, queste artiste, queste cantanti, queste musiciste che sullo stesso palco, la stessa sera, canteranno e esprimeranno la loro solidarietà attraverso la musica, attraverso le canzoni, attraverso veramente grande sincerità il loro impegno, assieme del resto anche a tutte le persone che parteciperanno, al pubblico, insomma, che ricordiamo sarà assolutamente un pubblico numeroso, quindi insomma è un evento assolutamente straordinario. Rapido riepilogo delle principali notizie della giornata. Nei prossimi 2 anni 2 milioni di persone in cassa integrazione o senza lavoro, secondo il centro studi di Confindustria. Fiat farà il possibile per tutelare i lavoratori, dice l'amministratore delegato Marchionne. I PM di Bari hanno sentito 4 ragazze che sarebbero state portate a pagamento a partecipare a feste nelle residenze di Silvio Berlusconi. L'opposizione iraniana torna in piazza oggi guidata dai suoi leader. Domenica e lunedì il voto per ballottaggi e referendum. È morto il filosofo tedesco Ralf Dahrendorf. Calcio nella Confederation Cup, l'Italia incontra le Egitto. È tutto per questa edizione di GR Extra Large, curata e condotta da Alessandra Tedesco e da Simone Spezia. Grazie per l'assistenza da Anna Migliorati e regia Peter Bescapè. GR alle 15, Extra Large torna domani alle 13. GR 24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.